Radio 24 Reportage. Dubai, l'emirato degli opposti, di Angelo Miotto e Cristian Elia. Sono dovunque, in equilibrio precario su improbabili impalcature, oppure immobili, a riposare. Sono loro i dannati di Dubai, i lavoratori immigrati che pezzo dopo pezzo hanno tirato su il più imponente skyline che si possa immaginare. Migliaia di torri scintillanti, l'una accanto all'altra, incastonate tra il mare e il deserto. L'espressione non cambia mai, scolpita. Uno sguardo vuoto, perso verso un punto lontano. Una terra, una storia, una famiglia. Tute blu, verdi, gialle, volti tutti simili che raccontano di terre lontane, India, Pakistan, Bangladesh, terre che tra quelle rughe disegnate da un sole infuocato perdono qualsiasi essenza di esotico. Il rumore dei cantieri è assordante, ma dopo un po' finisci per non badarci più. Si posa delicato, come un velo di sabbia, su tutto. Anche sugli immigrati, che a milioni sono arrivati qui dopo la scoperta del petrolio. Anche loro, alla fine, non li noti più. I search for a job by visiting the job websites, then by sending CVs through fax and mail. Like that, I search for a job. Shankar ha 40 anni e viene dallo stato indiano del Kerala. Alto ed inoccolato e magro da far paura. Vengono nel tuo villaggio, sono i piazzisti delle società di reclutamento. Le grandi compagnie non si sporcano le mani. Ti promettono uno stipendio elevato, vitto e alloggio a Dubai. Se vuoi cambiare vita, a te e alla tua famiglia non dici di no. Il volto immobile in una espressione triste. È arrivato a Dubai nel 2002 e da allora vive a Sonapur, quartiere ghetto della città. Baracche fatiscenti, bagni in comune in condizioni pietose, fino a 12 persone in pochi metri quadri. Fuori un muezzin chiama alla preghiera, mentre gli autobus riportano alle baracche migliaia di lavoratori. Appena arrivi ti tolgono il passaporto e scopri che guadagni meno della metà di quanto promesso. Per venire ti chiedono fino a $4,000 che ti prestano loro. Tutta la famiglia si indebita, ma quel poco che guadagni lo restituisci di interessi. Siamo prigionieri, molti muoiono sul lavoro, altri si tolgono la vita. Non so come scappare da questo inferno, anche perché devo finire di pagare il mio debito. Dubai e gli altri sei emirati che si sono federati nel 1971, prima della scoperta del petrolio, erano eremi di poveri pescatori di perle e di contrabbandieri. Poi l'oro nero, come un tornado, vite che d'improvviso diventano opulente. Ma il petrolio non è per sempre e Dubai non ne ha quanto Abu Dhabi. La famiglia Al Maktoum ha deciso di puntare sul turismo di elite, catene di alberghi e di mirabilie in grado di stupire il mondo. La torre più alta di sempre, gli alberghi più costosi del pianeta, i ristoranti in fondo al mare, costruzioni a forma di palma e di planisfero visibili dalla luna, centri commerciali vasti come città, dove si può anche sciare e giocare a hockey su ghiaccio, in mezzo al deserto. Il prezzo di tutto questo l'hanno pagato i forzati del lavoro, che qui rappresentano 5/6 della popolazione residente. Non tutti sono edili sfruttati come gli schiavi che nei libri di storia venivano disegnati mentre trascinavano le lastre necessarie a tirare su le piramidi, a eterna gloria del faraone. Qualcuno ha un lavoro normale, come la dottoressa Shashikala, una ginecologa indiana, un corpo minuscolo, avvolto da un sari elegante che quasi scompare circondato da centinaia di uomini affamati. I'm Dr. Shashikala, I'm the medical director of the Al Muslim Medical Center in Karama, Dubai area. I turni di lavoro sono massacranti, fino a 14 ore. I loro alloggi poi sono baracche di lamiera, pochi metri quadri dove dormono fino a 8 persone. Le autorità vengono a fare sopralluoghi, anche i media, ma poi non cambia nulla. La tosse cronica è la patologia più diffusa e poi ci sono gli incidenti sul lavoro. Tanti poi sono quelli che si suicidano. Non esistono cifre ufficiali, tutto è celato. La crisi economica mondiale, se possibile, ha peggiorato la situazione. Molti hanno perso il lavoro e non possono tornare a casa, perché il passaporto non lo hanno più, sottratto dai loro datori di lavoro. Qualsiasi forma di organizzazione sindacale è vietata. Questa gente, che lavora per 120 euro al mese, ha tentato in passato di scioperare. La risposta del governo è stata violenta e adesso hanno paura. I ribelli, dopo il carcere, sono stati espulsi. Di loro non si sa più niente. L'unica forma di resistenza è quella che abbiamo organizzato tra di noi, perché io e mio marito siamo fortunati, ma questa gente è sola. Shashikala si muove leggera, tra centinaia di operai che hanno perso il lavoro. La crisi globale si è abbattuta come una mannaia sui cantieri di Dubai. Molti hanno chiuso. Tutti si rivolgono a Shashikala. Alcuni non sono pagati da mesi e mangiano solo perché lei cucina per loro. Ieri, per esempio, abbiamo raggiunto un ragazzo vicino alla zona di Sonapur, dove si trova uno dei campi di alloggi dei lavoratori. È molto magro e aveva la febbre altissima. Mi ha raccontato che è qui da 15 anni e che in tutto questo tempo è riuscito a tornare a casa dalla sua famiglia in India una sola volta. Servono solo fino a quando lavorano per costruire queste maledette torri. Dopo non servono più a nessuno, né vivi né morti. Lo stereotipo, come un castello di sabbia, è fatto per sembrare solido, ma per sfaldarsi al primo maroso. Gli emiratini non sono tutti uguali, non partecipano in egual misura alla ricchezza generata dal boom di Dubai. Soprattutto non sono tutti indifferenti alle condizioni dei lavoratori immigrati e al loro sfruttamento. L'avvocato Mohamed Al-Mansouri, ad esempio, è un emiratino dalla testa ai piedi. Veste l'abito tradizionale, la candida e lunga dishdasha, mentre sul capo porta la gutra, il fazzoletto lungo e candido pure quello, tenuto fermo da un cordone nero che nel passato beduino di questo popolo serviva per legare le zampe del cammello, bene all'epoca più prezioso di 1000 torri sfavillanti. Lui non è indifferente. Le sue denunce gli sono costate il carcere e una vita sotto sorveglianza, ma non ha smesso di urlare la sua indignazione. Smetterò di rompere le scatole quando anche solo uno dei miei delatori mi dirà che ho torto. Fino a quando continuerò a sentirmi dire che ho ragione, ma che rovino l'immagine del mio paese, andrò avanti perché vuol dire che sto facendo la cosa giusta. Ho fondato l'Associazione dei Giuristi Democratici per fare pressione sul governo e perché credo nel mio paese più di tutti coloro che tacciono. Qui la legge sul lavoro è ferma al 1980 e l'accordo per il quale le imprese straniere che vogliono investire qui possono avere solo il 49% della loro attività, lasciando il 51% a un locale, ha creato un cortocircuito gravissimo. Gran parte delle imprese infatti finiscono nell'orbita delle famiglie degli sceicchi. Come potranno mai applicare leggi che promettono per tenere buoni i media occidentali, ma che finirebbero per danneggiarli economicamente? Che interesse potranno mai avere a rendere i diritti dei lavoratori in linea con gli standard internazionali? Ci rimetterebbero un sacco di soldi. Al-Mansouri lotta per un cambiamento, per introdurre la modernità a Dubai anche in forma di diritti e non solo di palazzi scintillanti. Le condizioni di lavoro degli immigrati sono inumane. Turni massacranti sotto un sole cocente, paghe da fame, alloggi disastrosi. Nessuna tutela sindacale, legale o sanitaria, condizioni di sicurezza inesistenti sul posto di lavoro. Il governo, quando si alimenta qualche polemica, promette mari e monti, ma poi non cambia nulla. Credetemi, tutto questo non c'entra nulla con le nostre tradizioni. Mio padre aveva dei braccianti, ma li trattava come figli. La tradizione nasce dall'educazione che riceviamo dai nostri padri, ma nessuno lo dice. I media qui si permettono di parlare solo degli effetti, mai delle cause. Sono ottimista per il futuro. Sono convinto che non potrete continuare a girare la testa. Cosa sareste voi oggi se di pari passo con lo sviluppo economico non ci fosse stato quello della società del diritto? Aspetto il momento in cui le vostre opinioni pubbliche si indigneranno per tutto questo e faranno pressione sui vostri governi, che faranno pressione a loro volta sulle multinazionali che lavorano qui, che a loro volta faranno pressione sui clan degli sceicchi, che saranno costretti a cambiare le cose, sempre ammesso che voi non abbiate perso la capacità di indignarvi. Alcuni operai sono più fortunati di altri. Lavorano in un cantiere vicino a una delle spiagge di Dubai. Non è raro vederli seduti, con tuta da lavoro, mentre prendono una boccata d'aria durante una pausa o alla fine del turno. Se ne stanno là, silenziosi, in mezzo ai turisti che fanno jogging, prendono il sole e fanno il bagno. Guardano il mare, con lo sguardo perso all'orizzonte.